Buonasera, buona domenica e ben ritrovati su Stolmon Rock. Prima di iniziare effettivamente la puntata, una piccola informazione di servizio, perché magari per chi e per i più attenti che magari seguono anche il podcast da archive.org e da un paio di puntate che non sto appunto caricando nessuna puntata di in podcast delle varie interviste che ho avuto qua in presenza oppure via telematica, in via virtuale per modo di dire. Perché purtroppo il sito appunto ha avuto qualche problema, quindi adesso piano piano stanno cercando di risistemare tutto. Da quello che ho capito dovrebbero aver avuto addirittura un attacco hacker, e non ho ben capito di quali e quante dimensioni, ma a quanto pare abbastanza bello tosto, perché comunque qualsiasi utente penso abbia avuto qualsiasi problema di poter di accederci e quant'altro, quindi per diverso periodo il sito era appunto quasi addirittura offline e adesso stanno tornando online, però giustamente ci vuole un attimo di tempo per poter caricare tutti i vari account e quindi di conseguenza ritornare a caricare anche da parte mia tutte le varie interviste e quindi adesso ne ho un paio ovviamente da poter caricare, che sono quelle appunto che ho avuto con i T-Rex Code qualche tempo fa e la qualche domenica fa con gli Aware, ricordiamo che non è Aware ma Aware, e quindi di conseguenza avrò anche qualcun'altra da poter caricare. E detto questo, torno effettivamente un attimo alla diretta con quello che effettivamente è le Stolmon Rock. Quindi stavo dicendo, ho anche questa domenica è domenica di intervista sto un attimo cercando un attimo qualche momento per potermi ricollegare con chi ho effettivamente in intervista, quindi adesso cercando di risolvere qualche piccolo problemino ve lo ripresento, perché è un grande ritorno. Quindi in questo momento è con me Holly degli Shandon, in questa versione però Magnetics, quindi ti saluto per la seconda volta. Ciao Holly, come va? Ciao, tutto bene. Ho provato un attimo col discorso di Instagram come solito, ma non ho visto che eri collegato con i Magnetic, quindi momentaneamente facciamo così, poi dopo nella piccola pausa riproviamo sulla diretta. Guarda, cerco di farlo immediatamente, ma in realtà non sto capendo. Ok. Era stato molto facile prima, adesso vediamo un attimo di risolvere anche questo mito. L'altra volta, prima mi hai trovato subito su Instagram e non so perché adesso non ha suonato niente. Vabbè, adesso attento, appena mettiamo un primo pezzo vediamo di far ripartire tutto e di conseguenza. Dicevo, quindi momentaneamente si è un attimo acciaccato perché c'è stato questa comunicazione che vi ho dato tempo fa con il discorso del braccio, del polso, quindi momentaneamente sei fermo, però sei in fase di guarigione. Vuoi un attimo dire come è successo, magari per qualche curioso? Ma guarda, sono a casa finalmente dopo 4 mesi di tour, stavo giocando con mio figlio, lui andava col monopattino, io skateboard, e avevamo appena cominciato, cioè abbiamo visto uno skatepark, siamo entrati, ho messo i piedi sullo skateboard, non so che cazzo è successo, mi sa che ho preso un sassolino che mi ha bloccato la ruota e sono andato con tutto il mio peso sul polso destro e si è rotto male, ma proprio male, cioè tipo scomposto, frattura seria. Quindi sono corso al pronto soccorso e mi hanno operato già. E mi hanno messo una placca, delle viti e un po' di storie, e adesso finalmente mi hanno tolto il gesso dopo quasi 30 giorni e piano piano, non so se si vede, ma sto cominciando a fare andare le dita e muovere un po'. E un po', vabbè, quindi adesso ci sarà un attimo questa riabilitazione. Io mi sono dimenticato di chiedertelo prima, quando ci siamo sentiti appunto per il check audio-video che abbiamo fatto un attimo prima, la domanda sui NoFX te l'avevo fatta tempo fa, ti ricordi? Perché purtroppo, avendo, avendoti già un paio, avendoti intervistato un paio di volte, non mi ricordo se ti avevo chiesto, col fatto che gli Shannon si sono sciolti, e sto chiedendo ovviamente un po' a tutti cosa sono per loro i NoFX, quindi non ricordo sinceramente se anche a te avevo chiesto cosa sono per te i NoFX. No, non me l'hai, credo che non me l'hai chiesto. Quindi allora a questo punto te lo vado a chiedere con il dono della sintesi, so perché ci sarebbe tantissimo da parlare, quindi prima di iniziare effettivamente anche per questo ti chiedo anche a te cosa sono per te un FX. Ma allora, io sono un vecchio di merda perché quest'anno faccio 50 anni, quindi ovviamente la cosa me la sono vissuta quasi in tempo reale con i NoFX, nel senso che quando sono arrivati in Italia la prima volta, non mi ricordo se era il 91-92, ok, li ho visti in un locale piccolo da 100 qualcosa posti, vigevano con gli Offspring di spalla. Mamma mia, che guarda, invidia, qua in questo momento invidia, vai pure. Gli Offspring li conoscevamo in 20. Io avevo appena cominciato, avevo appena scoperto Ignition, il secondo album degli Offspring. In Italia erano pressoché sconosciutissimi, erano di spalla in FX, suonavano malissimo, non che adesso, vabbè, però diciamo che in FX era una cosa che ormai era già nell'aria che spaccavano, no? E era il tour di White Trash to Webs and Beans, okay. Quindi veramente tanto tempo fa. E quindi diciamo che non li ho scoperti come magari qualcuno li ha scoperti dopo, già come gruppo grosso, cioè li ho scoperti come un gruppo normale che faceva 100 persone in un locale. E poi ho visto ovviamente tutta la loro carriera e l'ho, diciamo, sì, però vista crescere, cambiare. Poi sono cambiato anch'io, le mie orecchie sono andate da un'altra parte, poi le ho ripresi, mollati 100.000 volte, quindi non ho ho ovviamente un bel rapporto, perché loro sono dei fighi incredibili, però non ho un rapporto di idolatria, non so come dire, okay. Ci ho anche suonato un paio di volte, super easy in camerino, parlare con gente normale. No, vabbè, dai. Comunque, quindi questo è un buon ricordo, quindi mi fa piacere. Comunque, poi andremo a approfondire una volta che ci vediamo dal vivo questo discorso NoFX Offspring, che qui sono curiosissimo perché questa è una chicca che so da tanto. E rientriamo sulle Stormon Rock, e finalmente ce l'abbiamo fatta. E sono qui collegato appunto anche con Oli degli Shandon, anche su Instagram ce l'abbiamo fatta. E Oli, magari come ti dicevo, cerca delle cuffie, perché sento un gran rientro anche per quanto riguarda la mia voce. Se hai qualcosa al volo, intanto vado un attimo avanti. Aspetta, no, niente. Tu mi senti adesso, giusto? Perfetto, sì. Ok, niente, tutto a posto. Che trovo, però poi mi sentirei parlare, perché sono cuffie che tolgono il... No, allora a posto, tutto risolto, era un problema forse perché c'era ancora la connessione di WhatsApp sotto. Però togliendo questo piccolo parentesi che stiamo facendo bellamente un attimo i cazzi nostri, giusto per essere ancora più nella diretta, 333 180 94 94 se qualcuno volesse mandare un messaggio qui a Radio Città Fujiko per quanto riguarda un saluto, un messaggio ad Oli, oppure se qualcuno sta seguendo anche la diretta può tranquillamente mandare un messaggio che in due dovremmo farcela a leggere. Intanto si sta collegando un sacco di gente, come dicevo, Oli, questa versione è Magnetics, ci siamo... è la terza volta che ci sentiamo quest'anno, perché le altre due volte era in versione registrata al Viper per gli Shandon e il Soul Rocket, quindi ci tenevo almeno una volta averti effettivamente qua relativamente in studio per quello che potesse essere. Quindi, se non sbaglio, quarto album dei Magnetics, Skunk Latino, titolo geniale, perché con Ska ormai penso che si sia utilizzato qualsiasi cosa per poter dare qualche punto, per dire io faccio ska, però Skunk Latino spacca. Come è un po' nato questo titolo, e poi come mai tutti questi testi in spagnolo anche? Allora, prima di tutto devi sapere che io odio i nomi dei gruppi con dentro la parola ska. Ok. Quindi è una cosa che mi sono fatto uno sgambetto da solo. Ah, ok. Però avevo visto delle cose degli anni 60 di, e 70 di, degli Scatalites, che è l'unica band che, diciamo, che secondo me ha il diritto di avere il nome Ska dentro, perché praticamente l'hanno inventato. Ok. E dove ci sono un sacco di parole dove hanno incluso Ska in qualche modo. E siccome adesso abito in un paese spagnolo, diciamo che la mia, lo studio dello spagnolo e il fatto di parlare spagnolo tutti i giorni mi ha un po' portato ovviamente a interessarmi della latinità anche a livello musicale. E mi sono innamorato di un sacco di musica, che non c'entra un cazzo con lo ska, di musica latina o sudamericana in generale, cilena, venezuelana, eccetera. E da cosa nasce cosa? Dopo il nostro tour in Messico, due tour in Messico che sono andati abbastanza bene, abbiamo visto la reazione del pubblico messicano quando cantiamo in spagnolo, sbroccano. Fantastico. Cioè, ma sbroccano bene, non so come spiegarlo, però è come quando arriva qua l'americano di turno e dice tre cagate in italiano e tutti ci citiamo. Apoteosi proprio. Esatto. Come state, porca troia? niente, è nata con una cosa così. Poi abbiamo fatto la cover di Tuyo in spagnolo ed è andata molto bene sia in tutto Sud America. Allora, dopo queste reazioni assurde, abbiamo detto perché non proviamo a scrivere qualcosa in spagnolo. Abbiamo fatto due singoli e da lì abbiamo detto ok, facciamo uscire l'album, tanto le canzoni in spagnolo o che hanno quella natura lì, però le abbiamo fatte in inglese, alcune le abbiamo rifatte in spagnolo, tra cui Cuba Libre e Joanna, che erano in inglese, le abbiamo rifatte in spagnolo, e altre sono state proprio scritte per l'album. Un'altra invece è una collaborazione, si chiama Lo Siento, abbiamo fatto anche il videoclip, l'abbiamo scritta con il sassofonista degli Inspector, che si chiama Jesus, ovvero il padrino, il sassofonista degli Inspector, che sono una band che fa milioni di streaming e non sai quanta gente fanno in tutto Sud America e gli Stati Uniti, sono enormi. Lui mi ha dato una mano un po' anche come manager in Messico, e allora da lì è nata questa voglia di spagnolo. E poi mi hanno detto, ma siete italiani, se il disco si chiama Scangre Latino, perché mi è venuto in mente a me come Sangre Latino o Scangre Latino, perché non metti dentro dell'italiano? Ok, allora non avevo canzoni in italiano scritte da me, abbiamo messo dentro due o tre cose che avevamo nel nostro repertorio e abbiamo chiuso l'album un po' così. Però ti dico la verità, in futuro lo spagnolo avrà molto più spazio nel nostro mondo. Ok, quindi diciamo che sostanzialmente, era una domanda che comunque ti avrei fatto, è questo il motivo perché per cui ci sono le due cover della pelle nera e Scende la pioggia, giusto? Per buttarci anche quel pezzettino di italianità. E vabbè, già che stiamo parlando di questo, ti chiedo anche il discorso della terza cover che c'è all'interno, che è un pezzo degli Shandon che avete rifatto in versione Magnetics. Quindi ho visto che c'hai un po' questo giochino spesso, che da una band te la coverizzi in un'altra e viceversa. Quindi io però ti devo chiedere, ti chiedo scusa, io sono fan degli Shandon, ho il tatuaggio di Shandon, però non ho minimamente riconosciuto quale canzone è degli Shandon. Mi mejor error, a quale fa riferimento? È una canzone di un disco che si chiama Back on Board del 2016, l'originale si chiama Round Note. Okay. E era già Latin Ska e c'era già dentro Mr. T-Bone come ospite e anche Iasco di Cacao Mental come tromba e trombone, e abbiamo detto cavolo, sta latinità sarebbe, visto che con i Magnetics la facevamo già dal vivo, ho detto sarebbe figa farla in spagnolo, almeno nel disco abbiamo anche un pezzo tirato, perché poi la verità è che i Magnetics la fanno ancora più veloce degli Shandon. Per assurdo. Quindi l'abbiamo rifatta nella versione Magnetics che facciamo dal vivo, però in spagnolo. Ok, oh grazie, almeno mi ha risolto questo dubbio, che ho detto che cavolo di canzone hanno messo stavolta gli Shandon. Va bene, almeno mi sono, errore mio, però capita, dai, concedimelo, per modo di dire. Figurati. E ritorniamo con la diretta, sempre con Oli in questa versione Magnetics, e col quarto album, ripeto, del Scangri Latino, quindi è disponibile in tutte le piattaforme, CD, vinile, Spotify e quant'altro. E c'era anche un altro discorso, ovviamente, che avevamo un attimo in... non dico introdotto, però sempre un discorso che ci tengo a fare, ovviamente per sponsorizzare anche il discorso delle varie date che le varie band hanno in questo momento, ma ce n'è una in particolare di cui magari prima della prima parte del Stormon Rock volevo un attimo parlarne, che è questa data fighissima che hai per il 17 di novembre per i tuoi 50 anni. Quindi io ho visto, è una roba eclatante. Per quanto mi riguarda è molto bella, appunto, quindi se vuoi parlarne anche tu, anzi direttamente tu, con cosa si terrà. Era nato, questa cosa è nata perché una decina d'anni fa il Matthews degli STP per il suo 50° compleanno aveva organizzato un festival, diciamo per gli amici, dove suonava con tutti i suoi gruppi, e questa cosa un po' mi è rimasta in testa, e quando io ho compiuto 40 anni ho fatto più o meno la stessa cosa, però diciamo una festa solamente per privata, così, ecco. Okay. Siccome i 50 non tornano, non è che li compì tante volte in una vita, ho detto ok, facciamo qualcosa di speciale, e allora ho preso un teatro a Como. Un teatro si chiama Spazio Gloria Arcix Xanadu, dove di solito fanno cinema, concerti, robe così, eventi particolari, e ho organizzato una giornata dove suono con Magnetics, Shandon e attenzione con The Fire. Mi hanno stressato tutti per questa riunione dei The Fire, e sicuramente la faremo nel 2026 perché saranno 20 anni di L'Overdrive. Però diciamo che anticipatamente un anno prima faremo questo 35, forse 40 minuti, vediamo un attimino come siamo messi, perché comunque fare tre concerti di fila devo capire come fare. E allora da lì, un po' con l'aiuto dei ragazzi della Sick Family, abbiamo buttato dentro il Rubber Room, abbiamo buttato dentro Adinelli in acustico, il cantante di Sid & Feed, Vinks di Vanilla Sky sempre in acustico, insomma da una cosa mia è diventata un festivalino, ecco. Sì. Però ci tengo a dire che inizia alle 3 del pomeriggio e finisce verso le 9:30-10 di sera, perché siccome sono anni che mi dicono ma guarda, non veniamo più a vederti ai concerti perché non possiamo portare i bambini. Essendo una domenica pomeriggio, adesso voglio vedere dov'è la scusa. Esatto, adesso, No, guarda, io... No, nel senso che portare i bambini, perché è un teatro, non è neanche un club, capito, con gente scassata, ok. È un pomeriggio, quindi con le sedie, è proprio un teatro, quindi se volete venire con le famiglie è super figo. È tutto e infatti quando ho visto la data e mi avevi scritto, ho detto cazzo, sarebbe un sacco figo riuscire a venire, solo che da Bologna arrivare a Como è un po' lunga adesso, perché ho dato un'occhiata, sono 3 ore arrivare su, quindi se riesco mi farebbe un sacco piacere. Non è tanto l'arrivare, è il tornare giù alle 9:10, quello che possa essere, quindi sono le 3 ore di ritorno quelle del problema, perché essendo poi lunedì di lavoro vedo un attimo come gestirla, però questa è un sacco figa come roba. E brevemente, dato comunque che sei in tour, come dicevi, da inizio febbraio, comunque da aprile, adesso non mi ricordo di preciso quando, hai ancora qualche altra data con Magnetics, Shandon? Guarda, quest'anno mi sa che, se va tutto bene, che riusciamo a chiudere le ultime date, che non sono ancora state confermate, in Germania a dicembre. E forse chiudiamo l'anno chiudo l'anno tra Magnetics, Shandon e Soul Rockets intorno ai 120 concerti. Boia. Che è una bella manata. Quindi sì, ci sono ancora delle date. Adesso, proprio nel weekend del 17 novembre, del mio compleanno, sono il 15 a Bergamo al Druso, il 16 a Parma all'Arcistella, e il 17 a Como per il mio compleanno. Sempre con, il 16, scusate, il 15 e il 16 saranno concerti degli Shannon, e il 17 invece quello che ci siamo appena detti. Questo per quanto riguarda novembre. Mentre su dicembre ci sono dei concerti sia Magnetics sia, sia Shannon, di cui Roma, adesso così a memoria non me le vai tranquillo. Varese, una in Svizzera, forse chiudiamo 3-4 cose in Germania intorno a Natale, e forse abbiamo anche gli Shannon a Capodanno, ma siamo così, non ce l'hanno ancora confermata. Okay. Ecco. Ok, no, va bene. Sarà un dicembre interessante, poi a gennaio mi fermo, ma proprio neanche un concerto, perché devo ripigliarmi. E dovrò anche riprendere a suonare la chitarra, perché adesso novembre-dicembre con questa sarà dura. Esatto. Cioè, posso tornare a muovermi, eccetera, ma non riesco a suonare la chitarra fino a febbraio sicuramente. E sto cercando, un po' bestemmie, sto cercando di organizzare un tour europeo da fine febbraio fino a quasi fine marzo. Ok, quindi... Lavoro. Quindi ce n'è, c'è un sacco di roba da dover fare. Super figa, perché finalmente mi hanno confermato una data negli Stati Uniti, in Virginia, il 12 settembre per i Magnetics al Supernova Festival, che è lo ska fest più conosciuto in America. E da lì, 12 settembre, speriamo di riuscire a fare 2-3 cose in America e poi andare in Messico la settimana dopo. Ok. Però insomma, okay. Sto lavorando con... No, immagino. Infatti questa della data mi viene un attimo anticipato, infatti magari ne parliamo un attimo dopo, per come è nata più principalmente. Seconda parte di Lestormo Rock, sono sempre qui collegato con Olly in versione Magnetic. Stiamo un attimo disquisendo su tutto quello che effettivamente ha da fare, che ha fatto quest'anno, che uscirà ancora quest'anno con... per quanto riguarda Shandon Magnetics e questa piccola parentesi sul Rocket e la versione acustica, e cioè, purtroppo avendo tantissime cose da fare, dicevi anche tu che la promo di qualcosa è andata un po' a scemare. E non ho tempo per la mia famiglia, perché ho 3 gruppi, un sacco di tour da fare, e nei tour scrivo altra roba, registro altra roba, eccetera eccetera, e a un certo punto non ho più una vita, e mi ritrovo che a volte onestamente ho fatto uscire dischi o singoli o cose, non le ho neanche promossi, né a livello digitale né a livello social, né del tipo, sì, una su WhatsApp così mandato alle persone che so che può piacere, ma non è una promozione vera. Sì, dice, non è abbastanza. Un po' mi sono arreso all'idea che per fare promozione adesso nel 2024 bisogna avere migliaia di euro da spendere, per poi arrivare comunque a persone poco interessate, di cui queste poche persone interessate fanno un ascolto e dicono basta. Bene. E tu magari per quell'anno hai lavorato 3 mesi. Lo so. Quindi dopo un po' diventa abbastanza snervante, anche frustrante, vedere che tu lavori tanto e non porti a casa, a parte l'aspetto economico, non porti a casa neanche la soddisfazione di dire ok, ho fatto 3 mesi tra scrivere, registrare, promuovere, masterizzare, cazzi e mazzi, e poi viene gente a fine concerto e dice oh, ma quando è che fai un album nuovo? Ma veramente? Quest'anno ho fatto un album dei Soul Rockets, il best of risuonato degli Shannon con un inedito, e sono 20 canzoni, cioè 20 canzoni da registrare in studio sono un pacco di tempo, o nonché di denaro. Ho fatto un album nuovo dei Magnetics, ho scritto diverse cose per i Magnetics per il futuro, cioè 3 album praticamente in un anno solo, e nessuno lo sa. È questo magari che dispiace. Questo è abbastanza frustrante, perché uno dovrebbe essere sui social dal mattino alla sera, oppure avere una vita talmente social che l'aspetto di suonare, come nel caso di Fedez, diventa un un plus del tipo: io nella vita faccio, sono su internet di lavoro e poi sapete che ho questa passione per la musica, ho fatto un disco, mi cagate, però sta cosa non riesco a farmela andare giù, e poi a 50 anni da boomer come sono non riesco a connettermi con questo pensiero di essere online così tanto. Certo. Cioè, già tempo per la musica o per la mia famiglia, cazzo, non pensare di avere tempo per i social mi affligge. No, certo. No, capisco, perché effettivamente è impegnativo. Sì. I social infatti funzionano di brutto per i ventenni che hanno un singolo nuovo o hanno una carriera nuova, e in un certo senso i Magnetics sono una band che esiste da molto meno degli Shannon, perché esistiamo dal 2017, però devo dire che fortunatamente, essendo una band che funziona tanto all'estero e non in Italia, ho un po' questo riciclo di entusiasmo che funziona a priori senza social. Funziona perché gli ascoltatori medi hanno 40 anni e non 20, e quindi di conseguenza non stanno lì a aspettare la tua prossima foto con la fotomodella. Esatto. O tu che parli di calcio o di qualche cazzata di questo tipo. Quindi boh. No, ok, però guarda, a discapito di, io adesso ho due riferimenti che ho visto con gli Shannon quest'anno al Bayfest e qui a Bologna. Ho visto in tutti e due i concerti questo iniziale cazzeggio da parte del pubblico prima che voi effettivamente iniziasse a suonare, e alla prima nota c'è stato un massacro davanti, perché c'era proprio, magari ti trovi davanti il palco, magari guardi il palco e dici: ah, che palle, ci sono 10 persone, sono tutti qua per il gruppo principale. Poi alla fine, alla prima notte, vedi che ti si aggruppa un botto di gente davanti e dici: oh, finalmente era ora. Quindi questo è quello che ho visto anch'io qui a Bologna al Bayfest, quindi piccola soddisfazione, diciamo. Oh, non piccola, grande soddisfazione, perché onestamente invecchiando quello che succede negli Stati Uniti e in alcuni paesi del mondo, che questa cosa mitologica che si chiama meritocrazia, se un band degli anni 70 in America fa un tour, si muovono un sacco di migliaia di persone per vedere quel gruppo. Ti faccio un esempio: i Divo è una band che ancora adesso, se fa un tour, la gente della vecchia generazione e anche della nuova generazione scopre di questa band, e si trova Josh Freese alla batteria, che adesso suona nei Foo Fighters, ed è una band di ultra sessantenni che fanno la roba che facevano negli anni 70 e ancora fanno migliaia di paganti. In Italia questa cosa non può succedere, non succede neanche coi Litfiba, per farti capire. Cioè, se i Litfiba si riformano, fanno una settimana di sold out nei palazzetti d'Italia e poi c'è il dimenticatoio totale. Perché? Perché è così, l'Italia è così, e quindi di conseguenza vedere che gli Shannon hanno ancora, dopo tutti questi 30 anni di storia, avere i nostri tour che passano da, come si può dire, un periodo negativo a un periodo positivo, un periodo poi anche brutto che è stato quello del Covid. Nonostante tutte queste cose, vedere ancora le persone che adesso hanno 40 anni, che portano i figli o i fratelli piccoli o portano quelli che dicevano: oh, al liceo io ti parlavo di questi, adesso vieni a vederli. No? Certo. E è bellissimo vedere le reazioni che ci sono state quest'anno. Tipo una figa recentemente è stata: mi ha suonato in Romagna e il tipo del locale a fine serata fa: oh, ma non mi ricordavo che eravate così fighi. Cioè, come per dire, ci sapete ancora fare, cioè come se fossimo lì in carrozzella, capito? E fa ridere, perché perché vabbè, insomma, le frasi sono fighe, del tipo oh, fate il culo ai giovani. Sì, quelle robe un attimo da... No, va bene, va bene, dai. E siamo sono sempre qui collegato con Ogli in versione Magnetics. Scusa se ti interrompo, perché devo anche seguire il discorso della diretta. Sai che mi fa sempre un sacco piacere chiacchierare, e ci perdiamo sempre in tantissime chiacchiere. E un piccola parentesi, ci hanno scritto su Instagram, c'è un ragazzo che ti saluta dal Cile, quindi non so se magari qualcuno che hai conosciuto da qualche parte. E poi c'è anche questa un mio amico Manuel che dice: prossimo concerto Amore Disgusto o Deception. Quindi... lo so, è sempre lui che chiede sempre quei due pezzi sapendo che non li possiamo fare, quindi continua a chiederli tipo goccia sulla... Lo so, è come quando ti volevo urlare virus quando avete suonato qui a Bologna, poi ho detto vabbè, non me la sento, magari poi non me la fanno e ci rimango male, quindi ho detto, poi mi hai spiegato per quale motivo che era... C'è Fede che dice: ti aspettiamo a Roma, sei io che papà, quindi qua qualcuno che segue, sì. con i bimbi c'è. Ma... tornando effettivamente al discorso Magnetics, c'è sempre una cosa che adesso magari ti chiedo conferma, perché magari era un discorso che mi avevi già detto. Ultimamente hai più stimoli con i Magnetics, appunto perché hai un riscontro maggiore e tralasci, per modo di dire, un po' il discorso magari scendono o quant'altro. Quindi è ancora così questo fattore, più interesse per i Magnetics? Sì, perché ci sono i risultati, ci sono i numeri. Questo ragazzo del Cile non lo conosco, però se vedi sui nostri social ci sono un sacco di persone del Sud America che ci seguono e ci scrivono, nonostante hanno magari 7-8 ore di fuso orario, e ogni tanto infatti scriviamo noi. I social li curiamo quasi sempre solamente in inglese, a volte in spagnolo, sapendo di avere questo affetto dal Sud America. Infatti, già che ci sono, mi piacerebbe dire che me gustas mucho el Chile, me gustas una banda chilena que me encanta, se llama Macha el Bloque Depresivo, y me gustaría escucharla dal vivo. En vivo sería un genial. Vabbè, comunque, ho un amore per una band cilena che si chiama Macha y el Bloque Depresivo, che mi encantan, sono un gruppo che io amo, e spero un giorno di riuscire a fare un singolo, ormai tra spagnolo e italiano, certo. Un singolo con loro, che sono un gruppo incredibile. Non fanno ska, fanno una musica tradizionale cilena, fighissime. Ok. Ma c'è un po' che depressivo, Chico Trujillo, mia. vedi, infatti era sempre questo ragazzo che poco prima diceva Festival Sky in Sud America, quando dovete assolutamente venire, e adesso te l'ho ovviamente risposto a te. Mi gustaría toccare in Cile mañana, tío, mañana, perché il Cile mi encanta. Guarda, prima o poi arriveranno. No, guarda, noi abbiamo queste statistiche su Spotify for Artist, che per vedere i nostri numeri, no? E su 28 giorni, che è una stima mensile che Spotify ti dà, i 6.000 ascolti sono solo 6.000 ascolti sono messicani. Okay. Più di 2.500 qualcosa negli Stati Uniti, e poi subito dopo c'è Cile, Venezuela, Germania, Spagna, l'Italia forse è il 10° posto. Per farti capire un po' come stanno andando le cose, e quindi a cantare in spagnolo mi piace, mi encanta, è proprio una lingua sexy, una lingua molto passionale, e hanno una cosa che io amo molto, che si chiama el sentido. E il sentido è un concetto musicale, come dire il groove. Quando si parla del groove nella musica funk o reggae, no? Il sentido è quando una canzone tiene amore, tiene qualcosa da dire, da emozionare. Quindi questa cosa è una cosa che quando si canta in spagnolo senti che la devi dare, non so come dire, in italiano non ce l'hai questa priorità, in italiano hai la priorità di comunicare, infatti la nostra lingua è più poetica e più comunicativa, mentre la musica in spagnolo è più, tiene il sentito, deve emozionare, se no non funziona. Visto che hai messo Lo Siento, il singolo che mi hai messo prima, quella è una canzone che tiene molto sentito, perché è una canzone che parla di una donna che perde la vita dando alla luce sua figlia, ed è una canzone dove il padre parla alla figlia e alla moglie, quindi è una roba molto forte. E sono testi che so perfettamente che in italiano non avrebbero senso, oppure sarebbero quasi ridicoli, mentre lì sono molto forti. E la cosa bella, quando abbiamo suonato in Messico, quando inizia una canzone cantata in spagnolo, vedi le reazioni delle persone, che non sono le reazioni che hai in Germania, ma neanche in Spagna, okay. che comunque hanno la loro lingua, e neanche in Italia ovviamente. Senti proprio che chiudono, guardi che chiudono gli occhi e si toccano, come per dire: oh, questa la conosco, ah, questa mi sta arrivando, questa mi sta dando emozione. E questa è una cosa che non ho mai sperimentato in vita mia. Okay, è bellissimo. Figo. È bellissimo. Figo. Vedi la gente emozionarsi per una canzone che comunque fa ballare, non è una canzone triste. Non so, chitarra voce proprio per intristire la gente. Si sta parlando di canzoni come la cumbia o come la salsa, tutta la musica originale cubana, sudamericana, in generale arriva da una cultura dove il ballo è comunque compatibile con i sentimenti, mentre per noi è la musica da ballare, non deve avere niente a che fare, è solo da ballare, staccare il cervello e fregare. Mentre il bello di ballare col sentito è un'altra cosa, cioè ci si emoziona, capito? È proprio una cosa fighissima che non abbiamo qua. È come mangiare il piatto di un'altra cultura e riuscire a goderne le sfumature, insomma. Ok. Io, Olli, devo effettivamente salutare, perché siamo praticamente arrivati addirittura d'arrivo, perché vado a mettere effettivamente gli ultimi due pezzettini, intanto sono due minutini e ce la possiamo fare a chiuderlo. Io, come di come solito, mi fa un sacco piacere vederti e averti qua in diretta con me, e spero di vederti il più presto possibile, e intanto ti saluto e ci vediamo alla prossima. Grazie come al solito della disponibilità. Beh, se siete bolognesi, fate qualche chilometro, venite a Parma il 16 a vedere gli Shandon all'Arcistella, sarebbe una bella cosa. Dai. Quindi, grazie a tutti. Fantastico. Ciao. Arriviamo. Come dicevo, io vado a chiudere effettivamente la puntata con il consueto buon punk rock a tutti e buon proseguimento.